Officina Emotiva. Domani sera, mercoledì 14 febbraio 2007, ore 21. Officina Emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca La Dolce Vita, Brescia. Energia quando si è stanchi. Visualizzate un bel rosso vivo, brillante. Immaginate di essere immersi in un cerchio di luce rossa che vi avvolge. Respirate dentro questo colore. Visualizzate una rosa, un tramonto o qualche altra cosa che vi ispira questo colore. Percepite la sua forza vitale. Vi dà l'energia che vi serve. Ogni giorno, alle 6, c'è tutto il rosso che vi serve. Il cammino di Gigi D'Agostino. Uscite dal mondo. Riposatevi un pochino. Piano piano la musica, quando arriva il momento di togliere il brano perché bisogna mandare in onda qualcos'altro, allora molto ecco, pianissimo, così ancora un po', a posto, pubblicità, si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Quando t'ho perduta, rifioriscono la soluzione, la migliore, un motore certamente può tirare. La mia fantasia è un po' danneggiata, da troppo tempo parcheggiata. Puoi cambiare casa, come cambiano le cose così. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, Tamarro Bizzarro. Gigi D'Agostino, ogni giorno ti scassa un pochino. Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete dire quello che volete a chi volete. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. questo programma musical mental, olé, me gusta mucho macho, e que cacho. Nel nostro giardino qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Sabato 17 febbraio 2007, ore 22, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca 24.000 Baci, Latina. Gigi D'Agostino, ogni giorno alle 18. Gigi D'Agostino. La radio a colori. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hour. Think of all the great things we would do. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Gigi D'Agostino, un modo nuovo per entrare nel mondo dei balocchi. Violento. Officina Emotiva. Domani sera, mercoledì 14 febbraio 2007, ore 21. Officina Emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca La Dolce Vita, Brescia. Vuoi giorni grigi? Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 3 6 7 6 6 2. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Things were lost or faded. along with my dreams. Don't wanna let you go. The silence enveloped the night. I'm walking along with my dreams. The silence envelops the night. I'm walking along with my dreams. Il cammino di Gigi D'Agostino vi abbraccia forte. Ci sentiamo domani. Grazie.